Devo aspetta un attimo, perché pensavo di, perché non facciamo anche quella versione lì così che... Quale versione? Quella in cui c'è tutto il... No, ma no, va bene quella, lascia stare. Ma non mi spiegare? No, non mi interessa. Ma aspetta! Ma non mi interessa! Ma aspetta che te lo spiego! Non mi interessa! Aspetta!